E allora, molto gioia in questo studio, accogliamo le compagne del Centro Donna Lisa, buonasera, ciao. Ciao. Che vengono a raccontarci le loro ultime lotte e soprattutto, se mi ricordo bene, questo sportello aperto dal comune, ci dite un po' di più, no? Siete venute per questo, mi sa, forse non solo, ma il microfono è vostro. Siamo venute perché non possiamo mancare all'8 marzo del movimento del martedì femminista. Non potremo mai mancare in nessun modo. E quindi questo è il motivo principale per cui siamo qua. Salutiamo tutte le compagne, vi ringraziamo per il lavoro che fate, che è veramente fantastico. Oggi ho sentito gran parte della giornata, veramente un pezzo di bella radio, come si può dire. Eh sì, ma questi spazi non li possiamo fare senza di voi, dunque il ringraziamento va reciproco. Sì, dunque siamo qui e noi siamo un centro antiviolenza e diciamo che negli anni passati, da quando abbiamo cominciato a occuparci di violenza sulle donne, il nostro principale problema era quello di far emergere il fenomeno, perché era un fenomeno molto nascosto, non se ne parlava, si percepiva che fosse qualcosa di molto grande, noi ne avevamo la percezione, ma eravamo anche consapevoli di vedere solamente una punta di un iceberg. Adesso il fenomeno è uscito grazie al lavoro delle donne, alle donne che hanno fatto tanto e denunciano e cercano di contrastare, di cambiare soprattutto la cultura, perché ovviamente è quello alla base di tutto, la cultura patriarcale. E è uscito, tutti ne parlano. I mass media e i politici e tutti parlano, no? Ve ne sarete rese conto, quindi il fenomeno Certo. è esploso. Bene, tutti ne parlano, ma concretamente continuiamo solo noi, le donne, quasi sempre in situazioni autogestite, autofinanziate, a contrastare il fenomeno e invece la sensazione è quella di essere appunto isolate rispetto a tutto il resto della società. Questa questione dello sportello HELPS rientra perfettamente in questo discorso, cioè questo è uno sportello che il municipio ha dato in affidamento proprio perché adesso va bene per un politico, per un municipio anche di destra, aprire lo sportello per le donne vittime di violenza. È un fiore all'occhiello, si è vantato, lui ha detto: noi abbiamo aperto, questo presidente di municipio ha detto, noi abbiamo aperto tantissimi sportelli per gli animali, per gli handicappati, per le donne vittime di violenza. Questa è nella loro idea di contrasto dei fenomeni o di occuparsi dei problemi della gente, è questa: aprire gli sportelli e fare bella figura. Poi come li aprono questi sportelli? Con una associazione che si è sempre occupata di mediazione familiare. Siamo andati a vedere, ovviamente, affidato così per via diretta a un servizio pubblico all'interno del municipio, affidato non dico a voce, ma insomma con una memoria di giunta, e gestito da maschi, uno psicologo, uno psichiatra. E insomma, ovviamente ha suscitato il nostro sdegno. E quindi stasera volevamo fare un intervento, sì, appunto, su questo, ma agganciando questo a qual è la situazione attuale, perché noi nei centri antiviolenza si trovano in difficoltà spessissimo. Abbiamo delle donne, riusciamo a fare delle valutazioni di rischio, a volte sono a rischio elevato anche di vita, però non ci sono posti letto, non ci sono risorse. Tantissime donne non hanno le risorse economiche, non hanno un posto dove andare e noi ovviamente le aiutiamo, facciamo rete, ma siamo molto in difficoltà, per cui ci fa ancora più rabbia il fatto che tutti parlano di violenza e l'unica risposta che sanno dare porcate elettorali fatte sulla pelle delle donne, oppure niente, parole, chiacchiere. Ecco, quindi questo era... E soprattutto la risposta è di tenere le donne dentro casa, certo, con questa mediazione, sì, perché la risposta familiare tendenzialmente è di tipo istituzionalizzante, per cui sì, le istituzioni istituzionalizzano il problema o lo medicalizzano, sì, per cui di fatto tendono a voler monopolizzare, no? Tutto ciò che è autogestito dalle donne, che fa parte della sfera dell'autogestione delle donne, viene rifiutato, viene negato, e anzi le istituzioni tendono a volersi sostituire in maniera del tutto inadeguata, come la vicenda dello sportello ELPS dimostra, assumendo su di sé la cura, la presunta cura delle donne, però appunto, come ripeto, lo fanno monopolizzandola dal punto di vista della istituzionalizzazione e della medicalizzazione, che vuol dire trattare il problema come se fosse un problema di ordine medico, di ordine di pubblica sicurezza, come appunto le varie campagne razziste, certo, che vengono fatte, per non parlare dei problemi reali. E noi direi che siamo arrivati alla conclusione che l'unica soluzione, l'unica risposta è autogestirci, è risolvere la questione tra noi, autogestendoci tra donne, anche perché poi, voglio dire, c'è il problema culturale che il patriarcato pretende di risolvere, un fenomeno che esso stesso ha creato, perché la violenza contro le donne nasce all'interno del nucleo familiare, della istituzione familiare, e ancora meglio dell'istituzione matrimoniale, che viene perpetrata, che viene incoraggiata, che viene avallata, che viene pubblicizzata in questo paese come se fosse la migliore delle condizioni possibili. E quindi tutto questo ovviamente apre tutta una serie di contraddizioni che vanno proprio sradicate, vanno proprio abbattute alla radice. Come diceva Rosy, è un problema prettamente culturale. Se non si agisce sul lato culturale, sull'aspetto culturale della violenza di genere e della discriminazione di genere, si andrà poco lontano. E soprattutto, altro versante non meno importante, è il fatto che non si stanziano risorse, che proprio, detto banalmente, le istituzioni non danno i soldi per la gestione concreta, materiale, contingente dei problemi reali, perché se hai una donna che tenta di reinserirsi socialmente dopo che è stata vittima di violenza e non le dai la possibilità di avere un reddito, non le dai la possibilità di un'assistenza, insomma, chiamiamolo welfare, anche se la parola è forse abusata, ma insomma, se ha dei figli minori e non li può accudire e lo Stato non l'assiste in questo, insomma, abitazione, lavoro, cura e sostentamento della prole, che cosa stai facendo concretamente per questa donna per darle la possibilità di uscire da una situazione di violenza? Anche se poi questa cosa vale anche per molte donne che non sono vittime di violenza, perché di fatto la condizione femminile nella società italiana contemporanea è una condizione molto difficile, anche in assenza di una violenza manifesta. E io sentivo sempre in questa giornata organizzata da voi le compagne di Napoli che parlavano di un caso di una donna, appunto l'ennesimo caso di femminicidio, di una donna che non ha avuto possibilità di uscire di casa anche proprio per le condizioni materiali, cioè in assenza di casa e assenza di reddito. Probabilmente una vita che sarebbe stata salvata. Come dire, salvata. E non sono soltanto le condizioni materiali, ovviamente lo sappiamo tutti, anche in paesi dove c'è un welfare diciamo migliore del nostro, le donne subiscono violenza. Però certo aiuterebbe, voglio dire, spesso e volentieri le donne rimangono in casa perché non hanno altre alternative. E le occupazioni vengono sgomberate, e gli asili non esistono, voglio dire, spesso rimanere in casa in una situazione di violenza è l'unica alternativa reale, cioè nel senso non ce n'è un'altra dal punto di vista proprio di vita. Dicevo, non è solo questo, perché appunto, come già bene hanno detto le compagne prima di me, la questione della violenza di genere si basa su rapporti di forza che sono culturali oltre che economici, voglio dire, no? Ci sono diverse forme di usare violenza sulle donne. Uno è quello appunto della violenza fisica, ma c'è anche la violenza appunto economica, che non ti permette di avere un'autonomia economica. C'è una violenza, come sentivo prima le compagne De Castelli parlare di consultori, c'è la violenza che ti impedisce di autogestire il tuo corpo dal punto di vista gravidanze, piuttosto che, cioè, tu non puoi scegliere in realtà di abortire non puoi scegliere nemmeno di fare un figlio, perché non, magari non ti puoi permettere realmente di mantenerlo. C'è una violenza molto forte fatta dalle istituzioni, sia appunto in assenza di azione, ma anche in appunto materialmente nella violenza esercitata appunto attraverso gli sgomberi o attraverso, per esempio, le varie, senza arrivare appunto a parlare dei vari casi di stupro esercitati da militari e loro fratelli e compagni. E, c'è l'assenza di intervento. Voglio dire, sono i carabinieri, i poliziotti sono molto attivi, solleciti quando si tratta di malmenare ragazzi in piazza. E quando una donna denuncia, per esempio, la violenza del proprio compagno, spesso decidono di diventare, da repressori del crimine, decidono di diventare assistenti sociali. Noi più di una volta le donne ci raccontano che, appunto, andata alla polizia, gli dicono, come dire, beh, è il padre dei tuoi figli, ma veramente lo vuoi denunciare? E, fate pace. Non si può arrivare a una ragionevole denunce fatte completamente messe sotto nei cassetti o nel cestino dell'immondizia di donne che poi alla fine vengono uccise per questo, no? Cioè in assenza perché rimangono nella situazione. Infatti, un altro punto che è stato un po' sviluppato oggi era comunque questo fatto del limite della denuncia e di capire insieme anche che altre forme possiamo avere verso le donne vittime di violenza, senza avere comunque nessuna, lo sappiamo, è aperto, non abbiamo le risposte, si parla effettivamente di autogestione, di solidarietà, di aiuto reciproco e tutto questo, perché comunque c'è il limite della denuncia, ha i suoi limiti, siamo sempre frustrate davanti a questo, no? Noi sorridevamo quando tu dicevi questa cosa, perché sempre diciamo ci vorrebbero che andiamo là e insomma interveniamo noi o proteggiamo noi le donne. Purtroppo non le abbiamo queste forze, non le abbiamo, dobbiamo crearla magari la forza, perché anche se viene una donna al centro ed è una donna a rischio, io le devo dire di andare a fare la denuncia, non abbiamo noi... Oltre al fatto che spesso la giustizia ha degli inghippi, dei cavilli tali per cui anche fare denuncia in determinate circostanze, è un attimo, infatti, che la donna passi da vittima a carnefice, perché la denuncia potrebbe spesso ci si trattiene dal consigliare di fare denuncia, perché queste denunce, per eventi pregressi del passato di queste donne, potrebbero trasformarsi in qualcosa di peggio. In un momento in cui si fa un'indagine magari sulla donna, e quindi questo dicevamo oggi, no? Alcune donne non lo possono neanche permetterci. E poi oggi c'è una montante campagna dei mass media contro appunto questa presunta sindrome della madre malevola. Adesso si tende a solidarizzare con i padri, perché sembra che i padri siano appunto le persone più sfortunate della terra, soggetti a queste donne malvagie che vogliono togliere loro i figli e che peraltro non sono in grado di crescerli. Sempre nella vicenda Helps, questa faccenda della madre malevole è venuta fuori in maniera ripetuta, è una campagna battente di molti mass media. Uno degli psicologi che accoglierà lo psicologo che accoglierà queste donne in questo sportello, che speriamo non le accolga, noi faremo anche campagna per non farle andare, ha scritto un bellissimo saggio che noi abbiamo letto sulla sindrome della madre malevola. E si intitola così, la sindrome della madre malevola, e parla dei casi di separazione di queste madri che sono cattive, di fatto questo è il senso, e vogliono togliere ai figli la possibilità di stare coi padri, strumentalizzando i figli nella loro lotta personale contro gli uomini, e poi questi vanno a aprire uno sportello appunto, no, poi se per vuoi... le donne vittime di violenza voglio vedere se questi padri violenti cosa... No, ma siamo comunque in presenza di movimenti forti di forti, padri, sì. Questo sì, sì, sì. Cioè, con la l'attacco alle donne è molto forte. Anche a livello istituzionale, non solo l'estrema destra, anche le istituzioni più ripulite, insomma quelle in giacca e cravatta, fanno questi ragionamenti in maniera meno smaccata, evidentemente, ma li fanno, per non parlare poi del, come dire, dell'aspetto iperclericale che ha questa società, che anche nei confronti delle donne, delle situazioni appunto di autodeterminazione sessuale e riproduttiva, è disastroso, insomma, la questione culturale rispetto all'autodeterminazione nelle scelte riproduttive e sessuali, che poi si riflette ovviamente in quello che succede o non succede nei consultori, la decisione appunto di far riferimento alla 194, insomma. No, poi questa cosa dei figli, insomma, noi un elemento verso cui siamo molto sensibili, perché è un elemento di ricatto molto forte. Certo. Cioè le donne vittime di violenza, pur di non farsi togliere i figli, voglio dire, perché magari c'è questo rischio, pur di non dargli al padre violento, inaffidabile, che sanno che magari sono disposte a subire di tutto, perché e gli uomini lo sanno che è un ricatto molto forte. Infatti la prima cosa che gli dicono è ti faccio levare i figli, cosa che prima era un caso abbastanza remoto che potesse verificarsi, invece adesso l'atteggiamento dei tribunali, grazie a questi movimenti e poteri molto forti, sta cambiando, per cui non si va più tanto tranquille quando c'è un padre agguerrito, violento, ovviamente, non perché noi non vogliamo far vedere i figli ai padri, però dove c'è violenza, che usa l'arma di ricatto, ed è un'arma molto forte per le donne vittime di violenza, fortissima, non cedono molto spesso, insomma è una cosa che le terrorizza. Queste campagne d'opinione a sfondo appunto clericale. C'è stato un film ancora anche l'anno scorso, non mi ricordo, non l'ho visto, perché comunque questa era la tematica del povero padre che aveva perso. Ti riferisci al film con Valerio Mastrandrea, forse? Forse, no. Cioè. Sì. La cosa che volevo chiedervi, ma è una cosa che voi avete visto cambiare negli ultimi anni? Sì. Sì, l'opinione pubblica anche è cambiata molto rispetto a questo, nei tribunali l'atteggiamento cambia. Beh, c'è stata una legge molto grave dal nostro punto di vista, che è quella dell'affido condiviso. Mm-hmm. Ed è una legge abbastanza recente, fino a ragionevolmente 10 anni fa. Appunto, noi potevamo dire con una certa sicurezza alle donne che venivano dicendo mi ha detto che mi leva i figli, gli potevamo dire con abbastanza sicurezza Non succede, cioè veramente prima i figli venivano levati alle donne soltanto in casi veramente molto eclatanti, voglio dire, cioè di... E adesso invece con questa legge dell'affido condiviso praticamente il buon 80% delle sentenze dà appunto i figli ad affido condiviso, che voglio dire, a sentirlo dire, no? È come guerra umanitaria, cioè una bella cosa, che c'è di meglio della condivisione, voglio dire, no? E solo che la condivisione va molto bene quando c'è una separazione tranquilla, no? Quando c'è due persone adulte che hanno messo al mondo dei figli e se li condividono. In situazioni di violenza l'affido condiviso è una tragedia. È una tragedia perché appunto le donne sono ricattate continuamente appunto da partner violenti, che peraltro non si sono mai occupati dei figli in precedenza e che ha deciso di occuparsene solo dopo la separazione. Sono ricattate in continuazione, devono appunto qualsiasi scelta rispetto ai figli minori va discussa con un uomo che presumibilmente è violento e che magari ti manda 100 sms al giorno o si presenta sotto casa, ti butta le ruote della macchina, eccetera, utilizza tutti quanti i sistemi. E glieli devono far vedere, come dire, a prescindere dal fatto che questo qui, cioè che magari i bambini hanno visto picchiare la madre più e più volte davanti ai loro stessi occhi. E sì, è cambiata proprio la concezione, cioè nel senso il movimento delle donne è riuscito, i centri antiviolenza, il movimento delle donne, il movimento femminista, è riuscito a far emergere veramente la questione della violenza. Noi siamo il centro donna esiste da 15 anni e agli inizi, nei primi 5-6 anni c'era veramente il problema di far emergere, cioè le donne non te lo venivano nemmeno a raccontare, c'era bisogno di più e più colloqui per far uscire la cosa. adesso bene o male arrivano già con la consapevolezza di stare vivendo una situazione di violenza, e però appunto nel frattempo diciamo si sono riorganizzati, il potere si è riorganizzato per come dire, per rivisitare la questione della violenza come una questione non appunto sociale di rapporti di forza e di appunto di violenza di un genere sull'altro, ma quanto una questione che, come si dice, tra Mario e Maria, cioè un conflitto interpersonale, un conflitto interpersonale privato su cui appunto puoi agire con una buona psicoterapia. Sì. O con tecniche di mediazione familiare, che è un altro dei meccanismi che va per la maggiore. Infatti molti si propongono di risolvere il problema con la mediazione familiare, che ricordiamo, per inciso, voglio dire, la legge regionale vieta, e anche il 1522, che è il numero appunto istituito dalle pari opportunità, vieta di utilizzare la mediazione familiare quando c'è un evidente caso di un genere che prevale sull'altro in maniera violenta. No, poi va proprio contro tutte le cose che sono state messe a fuoco, visibile, che come si cresce una situazione di violenza tra due persone, cioè dall'uomo sulla donna, e con tutti questi meccanismi di isolamento, levare l'autostima, tutte le cose che abbiamo comunque raccontato tantissime volte, le luna di miele, questi spirale che si continuano e che sappiamo benissimo che è solo la separazione, perché anche le donne, cioè penso a questo film ancora, Ti do miei occhi, no? In cui comunque è fatto vedere anche che, cioè, con tutta la buona volontà di tutti e due e che aiuto di altri, comunque questa spirale va rotta con la separazione, cioè sì. E va rotta pure a livello con l'aiuto di altre donne, con una presa di coscienza, voglio dire, perché poi è quello che diceva Diana del rendere privata una situazione che invece è un problema che non è privato, perché non è un problema tra un uomo e una donna. Oggi, adesso, in questo momento, è un problema tra questo uomo e questa donna, che però su base globale puoi ripetere infinite volte, milioni di volte, il problema è sempre lo stesso, e questo dovrebbe dimostrare in maniera chiara, senza tema di smentita. Invece ci provano sempre a smentire il fatto che è un problema di ordine culturale, sociale, politico, e lo vogliono rendere una cosa personalistica, appunto, che un uomo e una donna con della buona volontà possono risolverselo al proprio interno, assolutamente inconcepibile di mantenere l'ordine sociale, l'ordine di potere. Che volevo dire? Abbiamo fatto il giro un po' di questa situazione che non cambia molto, che non, cioè, va peggiorato poi, perché comunque questi discorsi della mediazione familiare, cioè, questo si sente un po' dappertutto in Europa, cioè, non è proprio solo qui da voi. Continuiamo, quando volete venite, raccontateci, continuate a fare che le donne non andano a questo sportello. No, fare un po' di tutto perché le donne non vanno. Siamo molto determinate. Grazie mille, a presto. Grazie. Ciao a tutte. Ciao.